Obama alla fine della sua presidenza ha detto chiaramente che proprio il suo impegno per un maggior controllo sulla diffusione delle armi e sui possessori di armi è stato il più grande fallimento della sua presidenza. Ovviamente non è imputabile a lui, ma è imputabile al Congresso. Obama ha cercato in tutti i modi di far introdurre delle leggi che gli permettessero maggiori controlli sia sulle armi sia sui possessori di armi, ma non ci è riuscito. E quella di ieri invece è una questione che riguarda direttamente proprio il problema della diffusione delle armi, perché lo stato in cui è successa questa carneficina, in Nevada, è uno degli stati in cui c'è il maggior permesso di possesso di armi, ci sono i minori controlli di armi negli Stati Uniti d'America. Tanto per capirci, non è richiesto un permesso per comprare un'arma, non è richiesta la registrazione dell'arma, non è richiesto che il possessore abbia una licenza di porto d'armi, è permesso addirittura di portare le armi in pubblico in modo visibile, non è permesso di portarle in modo non visibile, quindi nascoste nella giacca, ma se uno arriva da un altro stato e ha quel permesso per portarle in modo, diciamo, nascosto, lo può utilizzare anche in Nevada. Cioè praticamente nessun controllo, nemmeno anche sul numero di armi acquistabili, il che permette appunto ad una persona che sia pazzo, che sia impazzito, che sia associato all'ISIS, questo c'entra molto poco, ma è proprio questa legge che permette questo tipo di carneficina. Parlavamo di amministrazioni, l'atteggiamento di quella attuale, quella guidata da Donald Trump, è molto diverso, si tenta una rimozione del tema. Esattamente, proprio la conferenza stampa che ha fatto ieri Trump e quanto appunto poi è stato detto dalla sua portavoce, e cioè secondo Trump sarebbe un atto di pura malvagità, e il portavoce di Trump ha affermato che parlare adesso delle leggi sul porto d'armi è una questione troppo complicata e prematuro, no? Dovranno essere fatti indagini. Beh, se fosse stato un attentato terroristico, dico io, cos'è? È prematuro parlarne? Quando è che se ne può parlare? Cioè, se non se ne parla adesso, quando? Quindi ha fatto bene, per esempio, Nancy Pelosi a invitare il Presidente del Senato a riprendere in mano tutta la questione sul porto d'armi e sulle leggi delle armi negli Stati Uniti. Ma questa, e qui è il punto interessante, è proprio quello di Trump e quello del suo portavoce, è stato l'atteggiamento uguale a quello della portavoce della National Rifle Association, che ha detto chiaramente, no, è prematuro in questo momento parlare appunto di leggi che riguardano il porto d'armi. È un tentativo di rimozione del tema, ovviamente, ne parleremo quando ormai la questione sarà un po' dimenticata. Proprio questo è una modalità di non affrontare il tema nevralgico, perché tutte le stragi che sono state compiute negli ultimi 15 anni negli Stati Uniti d'America sono tutte stragi compiute con armi legalmente possedute, o armi possedute, come nel caso di Lanza, dalla mamma del ragazzo, ma era legalmente posseduta ed erano state vendute in modo legale. Ecco. Uno dei punti, diciamo, della retorica della lobby delle armi negli Stati Uniti è, come dire, una sorta di maggior sicurezza possedendo un'arma, no? La possibilità dell'autotutela. E come smontare questo assunto? Guarda, più che smontarlo, lo ha smontato ieri proprio uno dei cantanti che erano sul palco a Las Vegas, il quale ha detto: io sono sempre stato un difensore del porto d'armi, e aveva tra l'altro un'arma, e dice: mi sono dovuto ricredere, perché in quella situazione, quando c'è quindi un check-in e si crea del panico, una persona che estrae un'arma, gli altri, anche i poliziotti, non sanno se quella persona sta contribuendo a difendere, diciamo così, la gente, o se invece è l'aggressore. Non si capisce. In una rapina in un supermercato si può anche capire, ma è difficile anche lì, perché poi chi lo sa chi è l'aggressore, il rapinatore, e chi è che vuole difenderlo. Ma in una situazione di questo genere è inconcepibile. E questo, purtroppo, quello appunto del porto d'armi, no? Che sarebbe l'idea che creerebbe l'idea di maggior tutela, è un'idea che si sta diffondendo purtroppo anche in Italia, soprattutto dopo alcune questioni che hanno riguardato la questione della legittima difesa, no? La testimonianza di questo cantante, secondo me, taglia la testa al toro, cioè fa capire chiaramente che più armi in giro non creano maggior sicurezza, ma anzi creano maggiore insicurezza per tutti. Tu citavi il dibattito che c'è stato in Italia sulla legittima difesa, al quale associamo anche l'allarme lanciato qualche tempo fa da alcuni questori sulla corsa all'armamento di, diciamo, di privati cittadini, eppure qualcuno chiede leggi più permissive. Anche in Italia, e succede sempre, quando c'è qualche caso che poi viene passato sulle TV dalla mattina alla sera, se pensiamo al caso di Casaletto Lodigiano, eccetera, eccetera, salta fuori l'idea che la difesa è sempre legittima e c'è una corsa al porto d'armi. Per fortuna in Italia, per quanto riguarda il porto d'armi, c'è quindi la possibilità di portare armi, la legge è estremamente restrittiva, sono nell'ordine delle centinaia le persone che possono avere questo tipo di porto d'armi, ma si aggira questa questione utilizzando altre due possibilità, quella appunto del porto d'armi per tiro sportivo, che sta fortemente crescendo in Italia, e per il porto d'armi attraverso il porto d'armi per la caccia, che invece è in diminuzione, anche perché richiede poi, diciamo così, di essere iscritti a associazioni venatorie, la licenza per la caccia tra l'altro costa, soprattutto dicevo la licenza di tiro sportivo, e questa è la domanda che è crescente, che si sta facendo, ma nello stesso tempo, e questo è il fatto ancora più preoccupante, è che ci sono ormai, si è creata in Italia una associazione, diciamo così, tra produttori di armi e gruppi appunto che promuovono, come negli Stati Uniti, il porto d'armi per difesa personale, promuovono questo tipo di idea e di ideologia, e gruppi che addirittura sostengono le campagne della National Rifle Association, che è una cosa che non si è mai vista. Di recente, per esempio, un comunicato di AMPAM con Assoarmieri e con Armi, che radunano i maggiori produttori di armi oggi in Italia, dalla Beretta alla Tanfoglio, alla Fiocchi, eccetera, eccetera, invitano al tesseramento presso questo comitato di 477, il quale comitato chiede appunto leggi meno restrittive sul porto d'armi, è il portavoce di questa rete della Firearms United internazionale, che è un'associazione che si ispira e che anzi chiede di implementare anche in Italia una modalità, diciamo così, di associazionismo e idee come quelle che diffonde la National Rifle Association negli Stati Uniti d'America. Ecco, è un'alleanza estremamente inedita, finora gli armieri, i produttori di armi avevano mantenuto un basso profilo su queste questioni, mentre invece oggi appunto invitano ad iscriversi ad associazioni come questo comitato di 477, direttiva 477, che appunto promuovono la diffusione delle armi in Italia e esplicitamente chiedono leggi più permissive sul possesso delle armi.